Respiro. Buon pomeriggio da Laura Bettini, ben ritrovati a questa puntata di Respiro, nella quale torniamo a parlare di edilizia. È stata appena inaugurata infatti a Pioltello, provincia di Milano, la nuova sede della 3M Italia, la notissima multinazionale americana, quella per intendersi di scotch, post-it e pellicole per vari usi. È un edificio davvero interessante e bello, qualche foto ve la proponiamo anche sul nostro sito, nella pagina del programma Respiro, ed è un edificio progettato dall'architetto Mario Cucinella, realizzato da Pirelli Re, ed è stato riconosciuto dal Kyoto Club come esempio di eccellenza per la riduzione del consumo e dell'impatto ambientale. È infatti uno dei pochissimi complessi per uffici in Italia in classe energetica A. Il presidente ed amministratore delegato della 3M Italia, Mario Mascolo, ci tiene a sottolineare che con la costruzione a tempo di record di questo building, 16 mesi dalla posa della prima pietra, ebbene sono stati centrati vari obiettivi. Primo obiettivo, quello della sostenibilità ambientale, ovviamente, che dice Mascolo fa parte dello spirito aziendale e che, oltre alla realizzazione di questa sede, si traduce in varie pratiche aziendali quotidiane, per esempio la quasi totale scomparsa degli archivi cartacei, che sono stati sostituiti dai documenti digitali. E poi c'è l'obiettivo etico nei confronti dei dipendenti, in particolare con spazi più ampi, più silenziosi, con più comfort, con attenzione anche alla salute e ai servizi. Qui ad esempio ci sono un presidio odontoiatrico, la possibilità di prendere una bicicletta e farsi un giro durante la pausa pranzo, c'è un servizio di tintoria e ci sono anche in futuro spazi per l'accesso del pubblico direttamente a questa sede, ad esempio nel periodo, ci si augura, dell'Expo di Milano. E infine è stato centrato, dice Mascolo, l'obiettivo non da poco di convincere gli azionisti americani che in Italia si può lavorare bene e velocemente, visto che dagli Stati Uniti sono arrivati i soldi e per di più in tempi di crisi. Questa non è stata un'azione, un obiettivo da poco da raggiungere. Sentiamo cosa ci ha detto per l'appunto l'amministratore delegato e presidente di 3M Italia, Mario Mascolo. Lei ha ricordato giustamente, 3M è una corporation americana. Come ha convinto gli americani? Con che parole? Ma io credo che più che parole ci vogliono dei progetti, delle idee, ci vuole una visione di medio-lungo termine. Questo paese non ha un problema di potenzialità, ha un problema di potenzialità inespresse. Noi non riusciamo a esprimere quali sono le nostre potenzialità. Siamo partiti da una delle tecnologie che riteniamo la più importante, la tecnologia del design. Abbiamo puntato molto sul fatto che l'Italia è il centro mondiale del design, la 3M Italia è diventata centro mondiale del design in questi anni, per cui abbiamo puntato molto sulla capacità di generare idee e di poter esportare queste idee in tutto il mondo. Quindi è stata un'opera di convincimento basata anche sulla credibilità che l'azienda ha saputo dare, la 3M Italia, dico, nel corso dei 50 anni di presenza sul territorio. E anche basandoci che è vero che l'Asia e altri continenti sono più concorrenziali da un punto di vista di costo del lavoro, ma rimangono le importanze strategiche e geografiche, rimane qualcosa che non può essere duplicato e che non deve essere delegato esclusivamente a determinati territori. Bisogna tenere strategie di lungo termine, quindi bisogna guardare indubbiamente ai mercati emergenti e alle aree in cui si può produrre meglio e a più basso costo i prodotti di più basso valore. Ma per la specializzazione, per la ricerca, per lo sviluppo, per la tecnologia, l'Italia rimane e rimarrà una frontiera importante, un'area importante dove tutti devono investire. Ed ora veniamo all'architetto. Dicevamo Mario Cucinella, cresciuto a Genova, dove ha fatto parte del team di Renzo Piano, è passato poi per Parigi, adesso è di base a Bologna. Che cosa l'ha incuriosito, che cosa l'ha interessato dell'edificio che gli è stato proposto di progettare dalla 3M? Ho pensato che era una bella opportunità di lavorare per un'azienda che aveva, diciamo, nel suo codice etico il tema della sostenibilità, quindi ho pensato subito, era anche questa idea di costruire un edificio che avesse un aspetto dinamico, cioè che è un edificio che è come se non fosse finito, no? Che ha queste code, questa parte della struttura che esce, in modo che l'edificio non abbia un profilo finito come sono di solito gli edifici per uffici, che sono delle scatole di vetro con questi bordi. E poi soprattutto il tema del colore, in una periferia anche un po' industriale di questa parte della città, no? Che è caratterizzata poi da questo grigio, dei capannoni, insomma, un'immagine un po' forse proprio sì, di lontana periferia, di fare un edificio colorato con dei colori come quelli della terra. In fondo questo oro, questo bronzo, questi colori scuri sono i colori che ci sono nella terra, negli alberi. Era un po' un modo per avvicinare l'edificio alla costruzione di un edificio che fosse anche una parte del paesaggio. Quali altri temi sono stati importanti? Poi magari anche qualche specifica tecnica. Ma sì, diciamo che dentro a un tema come quello di un edificio per ufficio ci sono alcuni elementi, come dire, rigidi, no? Come il tema della dimensione dell'edificio, c'è un tema di efficienza, è uno strumento di lavoro, un edificio per ufficio è uno strumento di lavoro, oltre che essere ovviamente un luogo da abitare. Quindi alcune caratteristiche riguardano proprio la forma e la dimensione degli spazi, quindi è un edificio molto profondo che ha dei cortili interni per portare la luce anche all'interno dell'edificio, quindi nasce su una letteratura molto, come dice, molto consolidata su come si fa un edificio per uffici. E dall'altra parte, forse la parte più, diciamo, chiamiamola anche estetica dell'edificio, dove invece c'è l'interpretazione non di un edificio classico, ripetitivo, di moduli come sono i moduli degli edifici per uffici, ma introdurre invece un valore appunto quasi paesaggistico, no? Quindi a fronte per esempio del fatto che l'edificio è trasparente solo al 50%, perché l'altro 50% è opacità, quindi isolamento, è una protezione dell'edificio, la parte trasparente viene sovrapposta da queste lame, queste lamelle, diciamo, di questi colori tra virgolette naturali, no? Che sono appunto il bronzo, il rame, l'oro, questi colori caldi che hanno una doppia funzione, sia danno un carattere forte all'edificio perché lo rendono dinamico appunto con queste lamelle che non finiscono il profilo dell'edificio, e dall'altra parte sono degli elementi di protezione e di diffusione della luce naturale, quindi si nasconde da un risultato estetico anche un risultato tecnico. Perché è più difficile realizzare un edificio in classe A di tipo per uffici rispetto a un edificio residenziale? È diverso, perché un edificio residenziale, come dire, intanto per le dimensioni che ha, una residenza, un edificio residenziale sono decisamente più piccoli. Secondo, l'uso che se ne fa è diverso, è molto diverso l'uso. Normalmente una casa non viene utilizzata durante la giornata, mentre invece un ufficio viene utilizzato soprattutto di giorno, no? Poi gli edifici per ufficio sono abitati contemporaneamente da tanta gente, sono comunque degli edifici appunto grandi che hanno questo tema, per esempio nell'ambito della classificazione energetica, qui stiamo parlando solo del riscaldamento, quindi poi dopo il tema è come riscaldare un edificio di queste dimensioni, che è appunto una parte trasparente. Come viene riscaldato, per l'appunto? No, il sistema di riscaldamento avviene attraverso l'uso delle pompe di calore e usando l'acqua di falda, quindi l'acqua di falda, che ha una temperatura costante, nel periodo estivo viene utilizzata a quella temperatura, che sono intorno ai 16-18 gradi, e viene utilizzata per fare del raffrescamento attraverso un soffitto che diventa freddo, no? E quindi che raffredda per il sistema di radiazione. Nel periodo invernale la pompa di calore invece utilizza quell'energia per scaldare l'acqua, e nello scaldare l'acqua lo stesso è il controsoffitto che diventa tiepido, e quindi è un sistema di radiazione a basse temperature, che è un sistema molto più vicino al comfort delle persone invece che usare un calorifero, no? Che ha una grande fonte di energia in un punto che deve irraggiare tutta la stanza. Se lei ha un soffitto che invece è tutto a temperatura costante, intorno ai 22-23 gradi, lei riesce ad avere una diffusione di quella temperatura e anche una sensazione più naturale. Cos'è che le ha dato più soddisfazione di questo edificio? Ma guardi, il processo di pensare e fare le cose è un processo complesso. Forse arrivare in fondo conservando l'idea iniziale è uno sforzo organizzativo e di conoscenza molto importante, quindi è sempre una soddisfazione arrivare. Quindi già questa è la soddisfazione, insomma. No, perché poi realizzare le opere è un fatto anche della cultura di uno studio, la cultura di un'azienda, la cultura di un paese. Un tema come quello che abbiamo affrontato, un edificio a basso consumo energetico, un suo obiettivo, è comunque una soddisfazione, perché vuol dire che questo tema sta entrando proprio nel DNA della vita quotidiana delle aziende, degli uomini, e questo mi sembra un passo di grande soddisfazione. Un po' a rilento in Italia rispetto al resto d'Europa, forse? Sì, decisamente a rilento, perché il nostro è un paese che estetizza tutto, no? Quindi anche un problema reale viene estetizzato, quindi viene discusso ma non viene fatto, no? Detto questo, questa volta ci sarà ben poco da parlare, nel senso che andiamo in una direzione ormai scritta e decisa. L'Europa su questo ci aiuta molto perché le direzioni europee sono molto precise, sono date delle indicazioni molto importanti sugli obiettivi da raggiungere nel 2020, quindi c'è tutta una politica, se vuoi, europea che ha dato il ritmo e dice cosa bisogna fare. Da Milano andiamo a Roma adesso, da un edificio sostenibile già costruito, andiamo a parlare di un grattacielo altrettanto ecosostenibile ma ancora in fase di progetto. È stato presentato non molto tempo fa, si chiamerà Eurosky Tower, sorgerà appunto a Roma nel cuore dell'euro ed ovviamente modificherà lo skyline della capitale. L'opera sarà realizzata dalla Pars Italia con il contributo del fondo BNP Paribas Real Estate, prende spunto da un'idea dell'architetto Franco Purini. Ed ecco quindi Purini al microfono di Nicola Accardo. Ma mi fa piacere che questa torre sia il primo edificio residenziale in Italia totalmente rinnovabile, totalmente sostenibile. Quindi spero che diventi il prototipo di tutta una famiglia poi di nuovi edifici che sorgeranno. Io credo che costruire in altezza nelle zone nuove sia fondamentale, perché il modo appunto per liberare la periferia o comunque le espansioni recenti da quell'anonimato dell'orizzontale che non permette mai di sapere dove si sta. I riferimenti verticali nella città storica sono tantissimi, pensiamo agli obelischi per esempio. Ecco, immaginiamo di cambiare scala e di considerare queste torri come gli obelischi della città contemporanea, come la metropoli romana attuale, quindi diventano punti di collimazione che permettono di misurare l'ampiezza della città, perché anche l'ampiezza è un valore spaziale importante. Come cambierà lo skyline della città e come cambierà anche il quartiere dell'Eur? Ma qui secondo me l'Eur trova una sorta di naturale prosecuzione, no? Perché questo intervento Europarco Casalaccio ha il vantaggio di essere un progetto unitario, quindi è un'aggiunta non casuale di edifici come se ne vedono qua attorno, ma è un pezzo di città abbastanza consistente che ha un suo disegno. Stavo dicendo prima che nel cuore, qui dove siamo adesso, sorgerà una piazza più grande di Piazza Navona, che è praticamente una piazza che, diciamo, in questo quadrante urbano manca. Abbiamo l'ex piazza imperiale dell'Euro, piazzale Guglielmo Marconi mi pare che si chiami, con la stele dedicata a Marconi. Da quest'altra parte abbiamo questa grande piazza, tra l'altro integralmente pedonale, che quindi sarà un luogo di aggregazione per il quartiere Torrino che gli sta davanti, la propaggine del quartiere Torrino, per Europarco Castellaccio e anche per i quartieri circostanti che sono privi di spazi pubblici così rappresentativi. Ultima domanda da parte mia, è vero che i centimetri della torre sono diminuiti per portare rispetto a San Pietro? No, nessuno ha voluto mai sfidare, era nel piano che abbiamo fatto che le torri fossero alte 90 metri più, diciamo, gli impianti eccetera, quindi non c'è stato nessun abbassamento. Luca Parnasi invece è amministratore delegato di Pars Italia, che costruisce tutto il business park Europarco, di cui il grattacielo sarà l'edificio centrale. Luca Parnasi sempre nell'intervista di Nicola Accardo. Eurosky Tower è la prima torre residenziale in costruzione a Roma ed è l'edificio, diciamo, più alto che verrà realizzato a Roma. Dal punto di vista progettuale è stato pensato, ideato dall'architetto Franco Purini, che è una delle principali archistar italiane, e si classificherà per essere un intervento completamente ecosostenibile, in quanto utilizzeremo le più avanzate tecnologie per quanto riguarda il risparmio energetico, cito ad esempio il riutilizzo dell'acqua piovana per l'innaffiamento delle fioriere, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per i servizi, diciamo, pubblici della torre, utilizzeremo un sistema di cogenerazione, quindi significa un impianto ad alta efficienza che verrà alimentato da combustibile ecosostenibile e, diciamo, utilizzeremo tutta una serie di materiali, chiamiamoli non impattanti, che saranno, diciamo, la caratteristica principale di questo intervento. Dal punto di vista tecnico parliamo di un edificio di circa 30 piani che avrà un atrio piuttosto importante, diciamo di circa 9 piani, e che ricalcherà quello che era il progetto, l'idea delle torri medievali che a Roma hanno connotato l'edilizia, di oltre 1000, diciamo, anni fa. Si inserisce all'interno di un complesso che si chiama Europarco, che è il primo business park di Roma, ovvero un centro d'uffici che vuole accogliere le principali aziende. Abbiamo già realizzato la nuova sede del Ministero della Salute e la nuova sede della Procter & Gamble, abbiamo in corso di realizzazione altri interventi. Il progetto complessivamente per quanto riguarda la torre sarà completata in circa 18-20 mesi e per quanto riguarda l'intervento complessivamente per circa 36 mesi. Bene, grazie a Nicola Accardo, grazie a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento con Respiro è per la prossima settimana alla stessa ora. Per riascoltarci c'è il sito www.radio24.it, c'è la pagina del programma Respiro. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.